Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi vi racconto una favola, però una favola è imbevuta nel rock and roll e negli anni gloriosi della musica, soprattutto britannica, però è una favola che inizia in un castello medievale a Monte Calvello, in mezzo alle colline dell'Alto Lazio. Naturalmente, in un castello del genere, parlando di favole, ci vuole un principe e noi ce l'abbiamo. Anzi, il principe è il protagonista della nostra storia di oggi. Lascio che sia lui a presentarsi. Prince Stanislaus Kossowski, the ruler, Baron de Vatterville, eccetera. Lo ripeto io, principe Stanislaus Kossowski de Rola, barone di Vatteville, è il protagonista della puntata di oggi, meglio conosciuto come Stash, o forse Stash, ma io da ora in poi dirò Stash. E naturalmente il nostro principe non è un aristocratico rigido e compassato, non è neanche una versione un po' sdolcinata di Cavaliere dai Riccioli d'Oro, buono per una telenovela. Il nostro principe ha dei lunghissimi dreadlocks che non taglia da ormai 25 anni, dreadlocks che ormai sono tutti bianchi, abita in un castello meraviglioso, però ha abitato anche a Los Angeles in una villa che ha trasformato nel punto di ritrovo di un certo beat californiano, e il mio principe non è circondato da cortigiani, ha degli amici particolari perché è stato, per esempio, amico di Brian Jones, il fondatore dei Rolling Stones, il più irrequieto, il più tormentato, quello che ha pagato con la vita la suo male di vivere. Però il nostro principe è anche amico dei Beatles e le sue principesse sono state donne meravigliosamente trasgressive come Marianne Faithfull e come Nico. Però lui è stato anche fidanzato con Romina Power, che era una donna che si inseriva perfettamente in quel contesto, almeno nei primi anni della sua vita, prima di sbarcare a Cellino San Marco assieme a Albano. Facciamo ordine. Stash nasce il 13 ottobre 1942 a Berna in Svizzera. La madre è la ricchissima baronessa de Vatteville, il padre è il conte Baltasar Kossowski de Rola, in arte Baltus. Sì, il grande Baltus, il pittore delle ragazzine ambigue con le gonne alzate, il re dei gatti. Insomma, i De Rola sono una famiglia della piccola nobiltà polacca, ma con già all'interno un grande artista, Baltus. E il ragazzo, però, dopo il divorzio dei genitori viene condotto dalla madre in Svizzera, vive in un ambiente cosmopolita. Basti pensare che il compagno della madre è il poeta Rainer Maria Rilke. Baltus raggiunge poi il fratello, scrittore, filosofo a Parigi, diventa così famoso che il MoMA di New York gli dedica una retrospettiva quando ha poco più di 40 anni. Stash viene concepito in piena Seconda Guerra Mondiale in Savoia, dove il padre si è rifugiato dopo aver abbandonato Parigi invasa dai tedeschi, e da lì si va in Svizzera al sicuro. Stash nasce e vive i primi anni a Villa Diodati, che è una villa vicino a Ginevra, dove ha vissuto anche Lord Byron, con il quale il padre ha una lontana parentela peraltro. Stanislaus è il primogenito di Baltus, un giorno sarà l'erede della casata, per il momento è un bambino con un nome altisonante, in famiglia gli danno un diminutivo. L'ortografia del mio nome era S-T-A-C-H, Stach con la C finale, perché quando ero piccolo mi chiamavano Stachu, un soprannome polacco molto comune per i giovani ragazzi che si chiamano Stanislas. È stato mio padre che si rese conto che avrebbe potuto essere pronunciato erroneamente come Stack, e quindi dal 1966 in poi lo cambiai in Stash. Insomma, avete capito, il clima aristocratico con un padre che si preoccupa anche della corretta gestione del soprannome del bambino, e lui cresce come tutti i ragazzi di quegli anni, vive nella natura, ama gli animali, ma arriva il rock and roll. Come per tutti i ragazzi, anche in quell'area nobile il rock and roll è devastante, diventa una passione, e una passione che comincia a fargli correre dei rischi. Quando avevo 14 anni, diventai un fan appassionato di rock and roll. Collezionavo tutti i dischi di Elvis e a volte anche in mezzo alla neve Mi mettevo in sella al mio cavallo per andare fino all'unica casa che aveva un televisore in tutta la regione per poter guardare 65 Special, uno show di musica rock and roll. E quindi immaginate, insomma, questo giovane principe che prende il cavallo e nella neve va alla ricerca di una televisione per poter vedere il rock and roll. Intanto a 19 anni il padre di Stash viene nominato direttore dell'Accademia di Francia. Nel 61 i ragazzi si trovano a vivere a Roma. Siamo nel pieno della dolce vita. Lui è alto, bello, ricco, è il figlio di uno dei pittori più famosi dell'epoca. Insomma, ha una serie di lasciapassare che agevolano la vita. Tutti i figli di personaggi famosi sono sempre costretti ad affrontare il confronto, spesso sfavorevole, fra se stessi e i loro parenti. Ma d'altra parte, ho beneficiato enormemente dell'essere figlio di mio padre, un essere umano veramente eccezionale che ha instillato in me standard di prim'ordine, anche se poi ho seguito una strada più eccentrica. E tutto il bel mondo aristocratico e culturale della Roma di quel tempo e il jet set internazionale si ritrova a Villa Medici. Insomma, sono anni molto formativi per Stash, che ha modo di incontrare soprattutto l'avanguardia culturale di quell'epoca. Il falco e il gabbiano. E dopo un'adolescenza trascorsa tra la Svizzera, tra i collegi in Inghilterra, questo principe cosmopolita, poliglotta, aristocratico, ricco, si gode da giovanissimo, grazie al padre che è Baltus, si gode la dolce vita a Roma. E insomma, è veramente un personaggio che sarebbe perfetto per qualsiasi film. E in effetti le prime proposte arrivano. Sono stato scoperto dal regista Luchino Visconti a Roma nel 1959 e firmai il contratto per un film. Con Fellini invece ho partecipato al 13° Festival di Cannes nel 1960. Il progetto con Visconti non va in porto, ma lui vuole provare la carriera cinematografica e quindi sceglie di andare a Hollywood per sondare le sue possibilità. Poi capisce che neanche questa è la sua strada e torna in Europa e si sposta a Parigi. Conosce un musicista, si chiama Vince Taylor, e lui suona come batterista nella sua band, i Playboys. Durante un concerto nel quale i Playboys fanno da supporto ai Rolling Stones all'Olympia, lui conosce e diventa amico del mitico Brian Jones, il fondatore dei Rolling Stones, il più tormentato dei Rolling Stones. Il gruppo intanto si scioglie perché Vince Taylor casca a due piedi nell'alcol e nella droga e lui, Stash, continua a rimanere a Parigi, continua a suonare in vari locali con altri membri della band. A un certo punto l'industria discografica pensa di trasformarli nei Beatles francesi. Nel frattempo lui ha conosciuto un famoso duo americano, gli Everly Brothers. Insomma, le cose per lui cominciano a prendere un'altra piega. Gli Everly Brothers erano pazzi di noi e così ci dissero: sentite, perché non venite con noi a Los Angeles? E così ancora una volta Stash rimbalza come una pallina da ping pong da una parte all'altra dell'oceano e si trasferisce, visto che comunque problemi di soldi non ne ha, questa volta si trasferisce a Los Angeles. Andai a Los Angeles, dove affittai immediatamente una grande casa, che presto divenne il centro di una specie di comune freak, con musicisti e capelloni. Divenne il loro quartier generale. E così, in questa grande casa nella quale si susseguono le visite di elementi della cultura, o comunque del mondo freak di Los Angeles di quegli anni, arriva anche un regista, si chiama Bob Rafelson. Sta lavorando a un nuovo progetto televisivo, è la storia di quattro ragazzi che vogliono sfondare nel mondo rock, i Monkees. Tutto questo insomma diventerà un telefilm celeberrimo e anche i Monkees diventeranno una band che avrà alcune stagioni giorni di gloria. Raffaelson vede Stash e capisce, almeno pensa, che il giovane principe sia perfetto per la serie. Gli offre un lavoro, ma non ha fatto i conti con la sua storia, con il fatto che lui non ha bisogno di guadagnare per forza e con il fatto che Stash è troppo eccentrico e raffinato per accontentarsi di una storiella pensata per il grossolano pubblico Yankee. Quando mi fecero arrivare il copione della puntata pilota, ne rimasi deluso. Era davvero pessimo. Mentre noi in quel periodo ci sentivamo parte dell'avanguardia, volevamo fare solo cose molto buone, e quel copione non era per niente buono. È vero, il copione non era per niente buono, era di basso livello, e questo naturalmente ne determina il successo. Vincerà due Emmy Award. Stash ovviamente non ha nessun rimpianto, anzi si annoia anche della California, anche se è diventato amico di personaggi famosi, James Brown, Bob Dylan, ma l'America è troppo moralista e puritana per un cervello come il suo. Nella vecchia Europa si può godere di un clima, diciamo, di relativa tolleranza nei confronti delle eccentricità, e l'America invece è l'America di Doris Day, della televisione per famiglie, insomma un'America che sopporta a fatica questa specie di aristocratico debosciato, come lo avrebbero definito loro, uno vestito di pizzi, di velluti, uno che fa servizi fotografici di moda in pose languide, non è uno che va bene per l'America. Molti giovani di oggi sono ancora affascinati dal clima di quei giorni d'oro, ma non tengono conto del clima di odio, di paure, di disgusto che la società cosiddetta normale aveva nei nostri confronti. I vestiti strani e i capelli lunghi venivano percepiti come una minaccia che giustificava una violenza immotivata. In fondo, gli alternativi di oggi sono in debito nei nostri confronti, perché se oggi non devono combattere contro degli idioti che li offendono per il loro aspetto, è grazie a noi che abbiamo resistito e siamo stati perseguitati dalle autorità. E così alla fine del 65 si torna per l'ennesima volta in Europa. Questa volta si va a Copenaghen e lì lui incide il suo primo e unico 45 giri. Si chiama Peace. Sul disco si firma Estach con la C finale De Rola. Oggi il disco è introvabile. Se uno ne avesse una copia, sarebbe un po' come avere dei disegni di Balthus, del padre di Stash. Lui è contento di questo evento, questo disco inciso, si trasferisce a Londra, forse vuole fare ancora musica, anche magari grazie all'appoggio dei suoi amici, i Rolling Stones. Ricordiamoci che siamo nel 66, Londra è all'apice del suo periodo swinging. Quella è la Londra nella quale uno dovrebbe essere stato in quel periodo. Se poi hai 23 anni, sei amico dei Rolling Stones, sei figlio di uno dei principali artisti del mondo, sei eccentrico, insomma, sei perfetto per quello scenario. Lui si ambienta benissimo in mezzo a gente che forse è ancora più strana di lui, e nel frattempo si fa tagliare i capelli in uno strano caschetto un po' medievale. Ah, la pettinatura anni 60. Il taglio era di Vidal Sassoon e l'ispirazione veniva da un personaggio di un fumetto degli anni 50, il principe Valiant. A Londra in quel periodo impazza quello che viene chiamato il Peacock Style, cioè lo stile pavone. Eh sì, perché dopo anni di vestiti da uomo, insomma fumo di Londra, se proprio si dice così, di scarpe inglesi, di conformismo, la città adesso esplode. I ragazzi hanno voglia di infrangere le regole, di buttare via ombrelli e bombette in favore di camicie indiane, gilet ricamati, pantaloni dai colori sgargianti. E Stash in questo è un numero uno, perché lui non si limita a indossare capi che ricordano altre epoche, però comprati a Carnaby Street. Lui sceglie vestiti originali che magari provengono da Damasco o da Bombay e li combina alla sua maniera. Non indosserei mai abiti che chiunque altro potrebbe avere. Per esempio, ho appena comprato un nuovo cappotto realizzato nel 1718. Il mio amore per raso, pizzo e velluto risale alla mia infanzia. Fin da piccolo ho avuto un acuto senso di quello che volevo indossare, nel bene e nel male. Il falco e il gabbiano. stiamo raccontando un'aristocraticissima storia che a questo punto arriva nella Swinging London con un protagonista particolare, il principe Stanislaus Klossowski de Rola, da tutti chiamato Stash. Lui ha girato tutta l'Europa, è stato in California, ma nel 66 è a Londra ed è nel punto e nel posto giusto, nel momento giusto. C'è Anita Pallenberg, insomma ci sono tutti, e poi lui ormai è intimo amico di Brian Jones dei Rolling Stones e in seguito diventa amico di tutti i membri della band. Inizialmente ero solo molto vicino a Brian, anche se avevo buoni rapporti con tutti gli altri nella band. Ma la mia amicizia con Mick e Keith sbocciò solo dopo la tragica farsa del mio arresto insieme a Brian, che anche se ha rovinato la mia vita professionale, mi ha guadagnato la simpatia e la duratura amicizia dei Beatles, che mi hanno poi fatto suonare con loro. L'arresto a cui si riferisce Stash, quello che dice lui gli rovina la sua vita professionale, ma insomma la parola è un po' impegnativa, professionale in questo caso, l'arresto avviene nel maggio del 67, la polizia entra nella casa che Brian Jones e Stash condividono, trova marijuana, cocaina, metedrina. Loro ammettono l'utilizzo della marijuana, sostengono di non saper nulla delle altre due sostanze e in effetti la perquisizione è piuttosto strana. Molti pensano che quella, più che una perquisizione, fosse un'imboscata. Quel terribile giorno di maggio il telefono squillò tutta la mattina. Io e Brian rispondevamo a turno e tutte le volte, invariabilmente, era qualche giornalista di nostra conoscenza che ci chiedeva: vi hanno arrestato? E questo prima che ci fosse il blitz. Avete capito perché ho detto imboscata? Cioè qui i giornalisti chiamavano prima ancora che il blitz ci fosse, quindi evidentemente insomma era una roba un po' preparata, ma le foto dell'epoca li ritraggono impeccabili e imperturbabile. Stash esce dalla stazione di polizia con il suo inseparabile cappotto di pelliccia, con la sua pettinatura da principe Valiant, imperturbabile, anche se probabilmente è traumatizzato profondamente quando il suo chauffeur lo accompagna verso la Rolls Royce, ma i suoi programmi vengono totalmente alterati da quel momento. Ero in una posizione davvero non semplice. Stavo per andare in America per girare un film e invece mi confiscarono il passaporto. Stash avrebbe dovuto partecipare a un film di John Huston insieme alla sua fidanzata del momento. Il suo grande amore che entra in scena adesso è Romina Power. È una Romina molto diversa dalla ragazza che poi qualche anno più tardi sposerà Albano. Lei è a Roma, fa una vita molto alternativa, ha 14 anni, è una delle ragazze del Piper, ammette candidamente di prendere quotidianamente LSD assieme alla madre, l'attrice Linda Christian. Compare seminuda su copertine di giornali, a 17 anni recita in un film che si chiama Justine, Le disavventure della virtù, con Klaus Kinski che fa The Sad, non so se mi spiego. Ed è in questo periodo probabilmente che Stash e Romina si incontrano. Sentiamo cosa scrive Valerio Mattioli nel libro Superonda, storia segreta della musica italiana. Stash, Romina Power, Anita Pallenberg, l'infaticabile Schifano e l'aristocrazia tossico-dorata della vita mondana romana svolsero un ruolo cruciale nel legare l'Italia ai piani alti della cultura alternativa internazionale. Erano personaggi ricchi, ma curiosi, sinceramente interessati a quanto si muoveva a lato della cultura ufficiale. E a 15 anni Romina si trasferisce con la madre a Londra, è la baby beat, almeno la stampa italiana la definisce così, e continua con la sua vita alternativa. La storia di Romina e Stash va avanti 2 anni, e poi però loro cominciano a vivere vite lontane l'uno dall'altro. Lui, dopo l'episodio dell'arresto, sta cercando la quiete, viaggia all'estero, lei comincia a recitare in Italia in film diversi, i famosi Musicarelli, perché la sua faccia acqua e sapone è funzionale al progetto di quel cinema italiano, e lì lei conosce Albano sul set, e il resto è storia di questo paese. Lui era sempre negli ashram, invece con Albano ci vedevamo ogni giorno sul set. Con Stash progettavamo di sposarci in Scozia chissà quando. Con Albano limonavo tutti i giorni davanti ai faraglioni. Quando ho lasciato Stash, si è ritirato su un'isola. Credo che per lui sia stato un dolore fortissimo. E pensate che Stash, che nella sua vita ha avuto molte donne, tutte bellissime, famose, Nico, Marianne Faithfull, Anita Pallenberg, Linda Eastman, che poi diventerà la moglie di Paul McCartney. Bene, per sua stessa ammissione, quella speciale, il primo amore che non si scorda mai, è stata Romina, con separazione traumatica. Insomma, questo non è un grande periodo per il nostro principe, e ricordiamoci che lui, malgrado tutto quello che stiamo raccontando, a questo punto della nostra storia ha solo 25 anni. Brian Jones e Stash escono scagionati dal processo, però le conseguenze saranno terribili, soprattutto per Brian Jones, perché i suoi avvocati gli consiglieranno di allontanarsi dalle cattive compagnie, ma la soluzione del problema, il finale della storia per Brian Jones sarà terribile, lo sappiamo. Privato della nostra compagnia, Brian cadde nelle cattive abitudini. Iniziò a usare i tranquillanti in maniera indiscriminata e la sua paranoia lo fece cadere a pezzi, e quello che ne risentì principalmente fu la sua musica. E do colpa alla polizia, strumento del clima reazionario e conservatore di allora, che ha provocato questa crisi, portandolo ad allontanarsi dai Rolling Stones e alla sua scomparsa definitiva. E così per Brian Jones inizia la picchiata. Viene lasciato dalla sua fidanzata Anita Pallenberg, che lo tradirà e si metterà con Kate Richards, col quale avrà 3 figli. Poi cercherà sollievo nei tranquillanti, nella droga, e morirà nel 69 a 27 anni. I veri amici si vedono nei momenti difficili, e per Stash il processo significa l'inizio di una nuova amicizia molto importante. Out of the blue, Paul McCartney called. Un giorno, dal nulla, mi chiamò Paul McCartney. Gli disse che Brian era fuori casa. Ma lui mi disse: non sto chiamando Brian, sto chiamando te. Come stai con tutto quello che sta accadendo? Gli dissi che in effetti avevo un po' di problemi, e lui mi rispose: lo so, ti sto mandando il mio autista. Trasferisciti a casa mia. Così, se ti vogliono fregare un'altra volta, dovranno provarci anche con me. Che bello questo scenario di Rolls Royce, di autisti, di miliardari che però in qualche modo combattono contro il potere. Per tutta la durata del processo, Stash si trasferisce a casa McCartney, e per ingannare il tempo i due si lanciano in lunghe jam session, alle quali alle volte partecipa anche un altro amico, John Lennon. Quello che è incredibile è che ho suonato in un sacco di materiale inedito che John e Paul volevano fosse la base per un album tutto mio. C'è anche una canzone di McCartney intitolata Suicidio. Ero anche seduto sullo sgabello del pianoforte di fianco a John Lennon quando ha suonato i primi accordi di quella che sarebbe diventata All You Need Is Love. Ero anche molto vicino a George, con il quale condividevo una passione per l'esoterismo e il misticismo orientale. E forse la passione per il misticismo, oltre al rock e oltre anche a una certa propensione, diciamo, a droghe lisergiche, entra in scena un altro protagonista dell'epoca, Syd Barrett, la vera anima, il fondatore dei Pink Floyd, e i due partecipano a un bel incontro a base di acidi nel Galles. Syd, diciamo, non è uscito proprio benissimo. E poi nel 67, in uno dei suoi soggiorni a Roma, a Villa Medici, Stash si fa fotografare nelle stanze della villa amministrata dal padre con due modelle nude in pose ammiccanti, decadenti. Il progetto dovrebbe andare su Playboy per sottolineare come si possano pubblicare cose di gusto anche su un giornale del genere. Poi in realtà lui è vestito con i suoi soliti insiemini peacock, però il progetto, diciamo, scende un attimo di categoria. Le foto vengono vendute a Playman con altre didascalie. Scoppia uno scandalo, il padre non apprezza di vedere la sede dell'Accademia di Francia trasformata in un set semi pornografico. Insomma, è il momento che bisogna andarsene per evitare guai peggiori. Lui parte, va in India e cerca poi sollievo in un ashram nell'Himalaya. Lama Govind è stato forse il più grande uomo che io abbia mai incontrato. Era un uomo estremamente dolce e piacevole. Quando mi sono presentato alla sua porta del suo ashram ai piedi dell'Himalaya, più simile a un eremo che a un ashram, mi presentai appunto e lui mi disse: «Oh, ti prego, entra, so esattamente chi sei». È l'inizio degli anni 70, vede Stash impegnato ancora su vari progetti, un po' di cinema, poi suona nella band di Joe Cocker, diventa amico di Marlon Brando, scrive sceneggiature per Roger Vadim, si fa di nuovo beccare per droga, questa volta con Keith Richards nel 73, e poi però comincia a stancarsi di questa vita, si ritira nel castello di Monte Calvello e inizia a studiare alchimia. Da allora è scomparso dalle scene del jet set, riappare ogni tanto alle inaugurazioni delle mostre in onore del padre, oppure in qualche party molto selezionato. È sempre elegantissimo, ma a modo suo, è una specie di hippie di lusso, con i lunghi dreadlocks, con i pantaloni bianchi, anelli alle mani, bracciali d'argento. A 74 anni è ancora molto bello, interessante, alto, forse ha più fascino adesso che non da giovane. È considerato un esperto di alchimia, sulla quale ha scritto libri con titoli come Il gioco aureo, Incisioni alchemiche del XVII secolo, diciamo dei libri nei quali lui non ha certo il desiderio di venderli per fare i soldi, ma ogni tanto si sente risuonare di nuovo la sua chitarra. Lui accende l'amplificatore e dà fuoco alle polveri nelle 80 stanze del suo castello. Insomma, la storia è finita in questo modo e tutti hanno vissuto felici e contenti. Chi è Stash? Un rivoluzionario, un fancazzista, un hippie, un intellettuale, forse tutte queste cose e tante altre ancora. Una vita interessante, perché è vero che nascere miliardario è un vantaggio, ma lui la vita se l'è saputa godere. Ognuno di noi nella sua vita, anche senza i mezzi che il nostro protagonista ha avuto a disposizione, può comunque vivere una grande vita con dei colpi d'ala che possono portarlo a volare in alto. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina, venite a trovarmi, a trovarci sui miei social, Facebook, Twitter, insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Filiasi. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.